Radio Wombat, Lovelace, bentornate, bentornati a noi più che altro, perché voi eravate lì, probabilmente noi invece eravamo a fare le nostre cosette e ci eravamo distratti e vi abbiamo lasciati in solitudine per un bel po' di tempo, ma siamo tornati e tornati per una nuova stagione di Lovelace. Si dice così, secondo me, tra le persone, quelle che sanno il fatto loro. E quindi sì, una nuova stagione di Lovelace densa di argomenti, di puntate, e forse vi sarete accorti o forse no, ma lo saprete da adesso, abbiamo cambiato giorno, non siamo più il giovedì ma siamo il lunedì, un lunedì su ogni due, quindi ogni 15 giorni, il lunedì alle 21. E invece in replica, questo in diretta chiaramente dicevamo, e invece in replica saremo il mercoledì alle 10 di mattina, se non ricordo male. Comunque tutte le informazioni sul palinsesto di Radio Wombat, sui programmi, su quello che sta fra l'altro per ricominciare, quello che già ricominciato e quello che ricomincerà delle nostre fantastiche trasmissioni, lo potete trovare ovviamente sul sito radiowombat.net. Già che ci sono, vi ricordo anche la casella di posta postawombat@insiberia.net e la nostra fantastica frequenza 1359 in onde medie, che ultimamente sta rombando, ruggendo veramente lontana, potente più che mai, ed anche da un bel po' lontano si riesce ad ascoltare, quindi vi invito a provare a sfoderare fuori le vostre radioline vintage polverose e sintonizzarvi sulle M e provare a vedere se ricevete il ruggito del Wombat sulle onde medie. Quindi oggi siamo qua, dicevamo, per una puntata di Lovelace dopo questa lunga assenza, e abbiamo sfoderato il nostro esperto in cose di sicurezza. Ti piace? No, come vorresti essere chiamato allora? Datti un... non lo so, sono un tuttologo. Ma un tuttologo poi non aiuta. Opinionista generico. Ma così non aiuta chi ci ascolta a capire di cosa pare. Datti, non lo so, un argomento. Oggi sei invece un po' meno tuttologo e concentrato. Ma su... oggi nella mia tuttologia parlerò di Pega. Beh, questo aiuta moltissimo a capire di cosa parlerà. Per creare delle difficoltà all'ascoltatore. Infatti. Per rendere un po' difficile l'ascolto, complicarlo, perché già abbiamo cambiato il giorno senza dirlo a nessuno. Infatti. Anche quindi già nessuno ci ascolta probabilmente. Vabbè. No, vabbè, ci ascolteranno mercoledì. Certo. Cioè, ma poi avranno perso le speranze perché comunque non si trasmetteva da mesi, quindi ormai dobbiamo riconquistare l'ascoltatore. Certo, anche perché comunque era giovedì prima, non mercoledì. Vabbè. Era giovedì? Vedi? Sì. È per quello che non tu ti confondi nessuno. Con il mercoledì, perché mercoledì è il giorno dell'E-Club di FDU. Ricordiamo che questa è la trasmissione burlona dell'E-Club fiorentino di FDU, che si ritrova tutti i mercoledì intorno alle 7:30, e quindi sì, parliamo. È per quello che non la facciamo di mercoledì. E infatti, perché facciamo già altro il mercoledì. E come potremmo fare? E peraltro potete venire a trovarci e vedere che cosa facciamo e farlo con noi magari anche, chissà. E non è la radio. No. Bene. Comunque oggi io avevo preparato degli argomenti, perché giustamente se fai la trasmissione qualcosa da dire lo devi avere. È importante. E in particolare mi ero appassionato a questa specie di telenovela che prende il nome di Pega. Ho deciso di chiamarlo come la commissione del Parlamento Europeo, che è stata creata all'incirca l'anno scorso, ha un annetto di attività, che dovrebbe indagare, fare delle audizioni, diciamo, svolgere un lavoro di indagine e poi rilasciare un report relativo all'utilizzo di alcuni malware, in particolare Pegasus, e poi vedremo nel corso della puntata che ne è spuntato un altro preciso, che è Predator, che vengono utilizzati o che sono stati utilizzati per spiare principalmente il bel mondo, cioè politici. Cos'è il bel mondo? Quelli che contano qualcosa, perché se li usano per spiare chi non conta un cazzo non gliene frega niente a nessuno. Infatti. Però tendenzialmente è uscito appunto che questa tipologia di sistemi di controllo, che poi illustreremo un po' più nel dettaglio, è uscito in vari paesi dell'Unione Europea. In particolare noi parleremo della Polonia e della Grecia, perché sono le uniche due che finora vengono citate all'interno dei lavori di questa commissione. E insomma, sono venuti fuori degli scandali, tipo quello della Grecia, che è venuto fuori dopo la questione la costituzione di questa Commissione europea. In realtà è stato uno scandalo abbastanza grosso che ha messo in grosso imbarazzo il governo. Cioè, a noi non ci giunge l'eco di questa cosa, perché siamo dei pari a noi. Sì, come anche, cioè, siamo vicini, ma non ci abbiamo già tanti problemi. Alcune di queste vicende sono talmente venute fuori che la Commissione europea ha deciso che doveva indagare su come venivano utilizzati questi malware. Anche perché la nota, diciamo, complessa da gestire a livello politico per i singoli stati è che teoricamente questi oggetti da queste aziende sono venduti soltanto ad intelligence governative. Quindi se qualcuno, un politico, un giornalista, se le ritrova sul proprio telefonino, cioè o sono stati i servizi di quello stato lì o sono state le intelligence di un altro stato. Ricordiamo velocemente, con poche parole, che cosa intendiamo quando diciamo malware, perché in effetti è un termine che alcuni chiamano, invece magari i giornalisti, o che chiamano captatori, più probabilmente l'avrete sentito, cioè vi suona un po' più facile se parliamo di virus, però anche lì non è spyware. Proprio spyware. Spesso i giornali parlano di spyware o malware. Captatori era quel termine vetusto. Era quello, diciamo, non so perché in Italia c'è stato a un certo punto questa cosa per cui, che ne so, cioè se tu devi rendere qualcosa figo lo dici in inglese, ma i captatori informatici no. Cioè non si capiva perché nella legislazione nostra, cioè noi tutto lo inglesizziamo perché è più figo, no? Tipo Job Act. Inglesizziamo, è figo. Cioè i captatori informatici erano la traduzione italiana di malware, cioè perché, di questi software malevoli che hanno sostanzialmente l'unica finalità è quella di controllare un certo dispositivo, un device, per estrarne delle informazioni. Si pongono da un punto di vista giuridico in una maniera abbastanza strana, perché non sono perquisizioni, non sono sequestri, non sono intercettazioni, sono tutte queste cose volendo tutte quante assieme, e quindi sono difficilmente normabili in maniera trasparente. E aggiungiamo che, anche se potrebbe sembrare ovvio, ma ovvio non lo è, che uno dei noccioli della questione è il fatto che uno di questi aggeggi dovrebbe essere, almeno se vogliamo utilizzare dei metodi legali, utilizzato nei confronti di una persona indagata. Quindi ci deve essere un reato, ci deve essere un'inchiesta in corso, un giudice deve autorizzare l'uso di questi strumenti. Qui stiamo invece parlando di strumenti che sono stati usati ad esempio su giornalisti, su uomini politici, su quindi persone che presumibilmente sulle quali non c'era in corso un'inchiesta. Quindi ora, al di là di tutto, vogliamo fare i legalisti, ecco, non anche all'interno, nell'ambito di una dinamica abbastanza legale e perbenista, questi strumenti è abbastanza strano poter utilizzarli senza appunto nessun appiglio legale, senza nessuna autorizzazione. Quindi uno dei come dire, dei quid, delle problematiche nasce da questo nodo. Sì, infatti, tendenzialmente, e questa è una roba comune a tutte le vicende che poi racconteremo, magari ci interrompiamo dopo con un po' di musica e poi le dividiamo, perché alla fine sono facili da dividere, perché una è, diciamo, sono i fatti accaduti in Polonia, gli altri sono i fatti accaduti in Grecia, quindi si dividono anche bene. Però una caratteristica comune è proprio quella che, nel momento in cui viene chiesto al governo in carica, perché di solito viene chiesto al governo in carica, come mai sono stati utilizzati questi mezzi, sono stati ritrovati queste cose su diciamo device, computer, telefonini di politici e giornalisti, e in altri casi attivisti, però è che gli attivisti sono più ambigui, perché violando saltuariamente la legge potrebbero rientrare in una normale indagine. Di solito politici e giornalisti ci sta che violino la legge, per carità, però tendenzialmente se non è un'indagine in corso quello che gli interessa, è molto più ingiustificato, no? Il fatto che, e allora i governi cosa fanno? Di solito quasi tutti quello che fanno è una roba tipo presente, non so se vi ricordate Boris, quando picchiano il merda e poi dicono sono stati i rumeni. Ecco, più o meno è la stessa cosa. Cioè i governi dicono sono stati i governi stranieri, no? Quindi si crea questa cosa, però non indaghiamo. È una cosa proprio, è un classico di questa risposta, no? Che tu gli dici, ok, ma sono stati i governi stranieri, allora c'hai un problema, apri un'indagine. No, non la apro, però sono stati i governi stranieri. Certo. E quindi tendenzialmente c'è un po' questo arrampicarsi sugli specchi, che penso sia il motivo per cui a un certo punto l'Unione Europea, siccome si tratta di stati dell'Unione Europea, quindi non si sta parlando, che ne so, un altro dei casi limite dove questi software si utilizzano un sacco è l'Egitto, però l'Egitto non fa parte dell'Unione Europea, no? Invece la Grecia e la Polonia sì. E quindi l'Unione Europea, penso che siccome le risposte erano un po' evasive e effettivamente i casi erano molto basati, cioè nel senso che c'erano proprio molte evidenze, hanno deciso di fare questa Commissione Europea. Va bene, io metterei un primo pezzo musicale per ora che abbiamo un po' introdotto la questione, così poi dopo entriamo un po' nel vivo invece. Ti torna? Ti aggrada? Sì, sì, a me va bene tutto. E quindi metto The Builders and the Butchers, che a me piacciono un sacco, li ho scoperti da poco, e quindi ve li propino. Bringing Home the Rain, se parte. We'll be right back. demons that haunt you, forgetting what it was that they taught you, and now there's no one left to stop you or to catch you when you drop. You're evil as the demons that haunt you, forgetting what it was that they taught you, and now there's no one left to stop you or to catch you when you drop. Rieccoci in studio, come si dice. E, Madonna, com'è alto questo microfono, non capisco bene i volumi ancora. Quindi vi ricordo anche, prima di continuare nella nostra puntata di oggi di Lovelace, il pad della diretta Wombat, o meglio, direttawombat.vado.li. E da lì arriverete al pad della nostra diretta, che è uno spazio vuoto nel quale potete dialogare e chiacchierare con noi mentre siamo in diretta. Però questo quando sapete che noi siamo in diretta, siccome noi stiamo facendo tutto a sorpresa, chiaramente probabilmente non c'è nessuno, ma vabbè, prendetela come abitudine, che magari un giorno o l'altro ci trovate. Quindi dicevamo, torniamo ai nostri malware, loro malware, a volte sono anche nostri perché ce li ritroviamo nei telefoni, nel computer. E si diceva due distinzioni geografiche, innanzitutto due paesi un po' di esempio che sono balzati agli onori della cronaca negli ultimi tempi, e partiamo dalla Polonia. Sì, perché l'ho scelto in realtà l'ordine temporale con cui questa commissione ha affrontato le interviste. Cioè, se si va sul sito del Parlamento Europeo, delle varie commissioni, eccetera, si trova sta pega, poi tu clicchi dove ci sono i documenti, non c'è niente, allora dici, ma non è che sta a lavorare tanto. Poi alla fine gira e rigira, trovi una specie di blog, in quel blog ci sono solo tre articoli, di cui uno praticamente è la formazione della commissione, dici va bene, vi siete formati. Poi c'è l'elenco delle cose che faranno e l'hanno divisa anche loro in due gruppi, cioè c'è stata l'audizione sulla Polonia, l'audizione sulla Grecia. Ripeto, l'obiettivo della Commissione Europea alla fine è quella di produrre un report, che prima o poi produrranno, ora non so per quando hanno fissato la fine dei lavori, comunque vi terremo aggiornati. E attualmente appunto nelle due casistiche che stanno indagando rientra la Polonia. La Polonia perché? Perché è successo ed è riuscita sui giornali più o meno quest'estate, intorno all'inizio di giugno, il fatto che un senatore polacco che stava ai tempi all'opposizione, un avvocato e l'equivalente del nostro, una magistrata, sembra una barzelletta messa così, lo so, praticamente si sono trovati il Pinocchietto sul telefono. Il Pinocchietto sarebbe il malware, questo nel 2019, e c'è una nota anche di colore perché in realtà l'indagine di queste cose è uscita anche attraverso Citizen Lab, che è un progetto che, se non conoscete, vi consiglio di cercarvi in rete. È un progetto basato in Canada che raccoglie campioni, i cosiddetti sample di malware provenienti un po' da tutto il mondo, cioè che vengono mandati appositamente da ONG, attivisti, sfigati, insomma eccetera eccetera, perché loro li analizzino e poi cerchino di fare la cosiddetta attribution, cioè di capire chi li ha fatti e, laddove sia possibile, servano in qualche modo anche sia da analisi tecnica, perché loro sono dei tecnici, la cosa interessante è che spiegano anche un pochino come funzionano. E l'attribution permette inoltre di andare a in qualche modo a cercare di smascherare o anche semplicemente sapere i nomi di chi sono i produttori di questi oggetti. E questa sarà l'ultima parte della puntata, dove inizieremo a parlare male delle persone. Ogni tanto li citeremo, però male male ne parliamo solo alla fine. E fatto sta che in Polonia, appunto nel 2019, questo senatore, questo è il fatto di colore, poi mi sono perso, volevo raccontare, è stato infettato da questo malware per 33 volte, cioè come gli anni di Cristo. Cioè, nel senso che... Però questo è un nesso, cioè tu dici che la numerologia è c'entra. È importante, sì. No, comunque praticamente l'hanno infettato 33 volte, nel senso che sul Tantine. Proprio cellulare analizzato lui aveva i segni di 33 infezioni e rinfezioni. Ho capito, ma come lo usava? Cosa faceva questo telefono? E evidentemente lui lo toglieva in qualche modo, oppure aggiornava, succedeva qualcosa e questi zacchette che glielo rimettevano, oppure semplicemente ci hanno provato in continuazione, perché comunque ai tempi cioè, diciamo che tendenzialmente loro sfruttano, poi ne parleremo anche dopo più tecnicamente, però spesso utilizzano nel comporre questi oggetti delle vulnerabilità raramente proprio del sistema operativo Android, qualche volta capita, più spesso sono componenti tipo il browser, cioè Google Chrome. Spesso sono delle cose che permettono di eseguire codice da un click, quindi ci sta anche che gli abbiano mandato più tentativi di clicca, clicca, clicca. E lui ha cliccato sempre. E lui ha cliccato su tutto, sì. Quindi è stato infettato, si è infettato 33 volte. Già. Vabbè. Cose che potrebbero capitare a molti, sì. Peraltro. La cosa interessante è che quando Citizen Lab ha fatto uscire questa cosa, subito il governo polacco, come diciamo prima, cosa ha detto? È una fake news. E comunque, se anche fosse vero, non siamo stati noi, sono stati rumeni. Esatto, no. Quasi. È stato un'intelligence straniera. Come una. Esatto, infatti quelli di Citizen Lab in maniera molto, molto diplomatica hanno detto: a maggior ragione, allora dovresti indagare, perché è molto grave se un governo straniero vi spia i senatori. 33 volte. E lì si è fermato il dibattito sostanzialmente. Ah, vabbè, è andata così. Sì, perché praticamente l'azienda che lo vende, perché questo si tratta di i software che hanno trovato, è Pegasus, che è quello prodotto dall'NSO. L'NSO è questa roba che fa un po' il verso all'NSA, ma in realtà è un'azienda israeliana specializzata in queste cose. Ora, a me questa cosa che loro si chiamino NSO, secondo me è proprio, cioè, è una provocazione. O una provocazione oppure è anche un omaggio. Ah, tu dici? Secondo me sì. Ho capito, però ci dovrebbe essere... C'è un aspetto interessante che vedremo alla fine quando vi racconterò un po' di più su queste aziende israeliane, perché non è coinvolta solo una ma più d'una, e quindi sono andato un po' ad approfondire, e in realtà c'è un intero mercato di queste cose in Israele, e che poi vi spiegherò perché è nato questo mercato, perché è molto interessante la genesi. Ma non anticipiamo, non corriamo troppo, rimaniamo in Polonia. Comunque in Polonia questa cosa sta un po' uscendo, ed è anche uno dei motivi probabilmente c'è una commissione parlamentare, perché ci si è messa di mezzo anche Amnesty International, nel senso che questa roba è abbastanza comune sia per il caso della Polonia che per la Grecia. Il fatto che appunto i governi interrogati di queste cose non abbiano dato grosso, come dire, risposte convincenti, ma più che altro la cosa un po' particolare della vicenda polacca è che effettivamente messaggi e SMS, cioè messaggi di testo e quindi anche robe di WhatsApp, perché questi oggetti qua lavorano, intercettano tutta la messaggistica stando sul telefono, perché sono lì sopra, quindi non è che c'è bisogno di in qualche modo di un protocollo sicuro, non è un'intercettazione, diciamo, on air, è proprio che il pinocchietto sta lì, quindi se vede cosa, cioè lui prende quello che tu stai scrivendo quando apri la tastiera virtuale. Sì, un altro dei nodi appunto importanti di questa, cioè in generale quando si parla di malware, uno è quello a cui facevamo riferimento all'inizio della questione, che spesso chi viene intercettato è appunto una persona che non ha manco un'inchiesta in corso, ma l'altro nodo fondamentale è capire questi strumenti che cosa possono fare, e di base quando si parla di questi strumenti la domanda da farsi è che cosa non possono fare, perché di base si progettano questi strumenti proprio perché siano in grado di fare quasi un po' tutto. Alla fine sono delle banalità, cioè nel senso quello che fanno è quello che fai anche te normalmente usando il telefono, solo che non lo fai in questo senso, cioè nel senso anche te utilizzi il microfono del tuo telefono per parlare, però loro lo utilizzano per ascoltarti, quindi possono accendere il microfono, anche te utilizzi il cellulare per fare le foto, eppure loro ti fanno le foto, però dall'altra parte, cioè anche te lo usi per fare i video, pure loro, però se c'hai le due telecamere loro ripigliano sempre con quella un po' più, oppure quell'altra, a seconda se vogliono vedere la stanza, eccetera. Un'altra cosa che fanno chiaramente è te ci scrivi col cellulare e loro leggono quello che scrivi, perché tutte queste cose, le password. Esatto, tutte queste cose io stando sul tuo cellulare le posso fare, e funziona così. Ma perché le posso fare? Perché sono un software, e cioè se software sono quelli che vi permettono di fare tutte queste cose, ci saranno pure software che vi permettono, che permettono all'intelligence di fare queste altre cose, e quindi alla fine non fanno magie, fanno tutte cose che sono del tutto normali per un cellulare, solo che viste in quest'ottica qua risultano inquietanti. È tutto lì. Comunque la cosa interessante che ha inquietato sia Amnesty International che probabilmente la Commissione Europea è che il governo ha, cioè ai tempi di quando sono accadute queste cose, questi messaggi che gli erano stati rubati sono poi stati utilizzati all'interno di scoop, interventi giornalistici sulle TV di Stato. Quindi questa cosa di sono stati servizi di intelligence stranieri, e un po' stride. Cioè, non è che, capito, li abbiamo ritrovati e... cioè, non sono stati i servizi segreti americani e poi l'hanno fatto girare su Fox News. Cioè, lì era tutta una vicenda interna a loro. E quindi, butch, cioè, nel senso che i sospetti sono molto forti. Tanto appunto che c'è una commissione europea che indaga su queste cose. E finora il governo si è un po' arrampicato sugli specchi, però questa è una cosa tipica di quasi tutti i governi colti in fallo. Cioè, fosse stato in Italia, non è che noi avremmo fatto diverso. Noi avremmo detto veramente sono stati i rumeni. Ovviamente sì. Sei i zingari. Avrebbero detto, sì. E quindi niente. Che bello. Sospenderei, e poi passiamo a un paese più caldo della Polonia, si va al mare in Grecia. Sì, e quindi per, come dire, traghettarvi verso questo paese più caldo, mettiamo The Roots con You Got Me featuring Erykah Badu. Ma sempre che un po' ci mette un po' a partire. Un pochino, ancora un pochino, proprio tanto, ma proprio che non parte. Cantala. No, dai, ora parte. We used to live in the same building on the same floor and never met before until I'm overseas on tour and peep this Ethiopian queen from Philly taking classes abroad. She's studying film and photo flash focus record. Says she working on a flick and cut my click through the score. She says she loved my show in Paris at Elysee Montmartre and that I stepped off the stage and took a piece of her heart. We knew from the start that things fall apart, intent to shatter. She like, that shit don't matter when I get home. Get at her through letter phone, whatever, let's link. Let's get together, shit, you think not? Think the thought went home and forgot. Time passed, we back in Philly, now she up in my spot. Telling me the things I'm telling her is making her hot. Started building with her constantly round the clock. Now she in my world like hip hop and keep telling me, yeah. Sometimes I got to be out at the height of the night, and that's when she flipping get on some old. Another lonely night, seem like I'm on the side, you only loving your mic. I know you got to get that paper, daddy, keep that shit tight. But yo, I need some sort of love in my life, you dig me? While politicking with my sister from New York City, she said she know this ball player, and he think I'm pretty inside. I'm playing, boo, you know it's just with you, I'm staying, boo. And when cats be popping game, I don't hear what they saying, boo. When you out there in the world, I'm still your girl. With all my classes, I don't have the time for life's thrills. So when you sweating on stage, think of me when you rhyme. And don't be listening to your homies, they yeah, so what you saying, I can trust you. Is you crazy, you my king for real. But sometimes relationships get ill, no doubt. That rat could be that cool cat that's whispering, she trying to play you for the fool black. If something's on your chest, then let it be known. See, I'm not your every 5 minutes all on the phone. And on the topic of trust, it's just a matter of fact that people bite back and fracture what's intact, and they'll forever be. I ain't on some, oh, I'm a celebrity, I deal with the real. So if it's artificial, let it be. I seen people caught in love like whirlwinds, listening to these squads and listening to girlfriends. That's exactly the point where they whole world ends. Lies come in, that's where the drama begins. And she like, yeah. If you were worried about where I've been or who I saw, what club I went to with my homies. Quindi, siamo arrivati in un paese più caldo, dicevamo, la Grecia. Al mare, sì. Più caldo perché poi lì succede sempre casino. Tra l'altro siamo un po' sparpagliati perché prenderemo alcune vicende che accadono proprio a Cipro. Mm. E altre invece che sono più della penisola. Mm-hmm. In particolare, partiamo da quella più recente perché è quella più grossa, diciamo, che ha messo più imbarazzo il governo, anche se il governo ha rimpallato sui servizi segreti. Questa volta ha detto non sono stati quelli stranieri, sono stati i nostri, ma è stato uno sbaglio. Beh, che comunque è la seconda scusa più, hanno detto, sono sbagliati, più usata. Esatto. E perché la vicenda è venuta fuori verso fine agosto, quindi abbastanza recente, ed è stata tirata fuori dall'opposizione, nel senso che un giorno è arrivato Tsipras in aula e ha detto dovreste riferire in merito a il fatto che è stato trovato un altro malware che ha un altro nome, così almeno ogni tanto si cambia. Prima abbiamo parlato di Pegasus dell'NSO, adesso invece parliamo di Predator. Vabbè. Più forte. Ma perché Pegasus sembrava un po' la roba tipo, non lo so, un cartone animato, dai, come si chiamano? I Cavalieri dello Zodiaco. Esatto, quello volevo lo dire. Lo so, ma magari sono ispirati a quello. Ma ci sta, no? E invece poi Predator invece è più... Predator è prodotto dalla Citrox. Che sembra una marca di medicine. Di Cerotti. Sì, esatto. Sì, anche a me. La Citrosodina mi viene in mente. Sì, esatto. Vabbè. E invece no, è un... No. Poi lo vedremo, è un'azienda, dopo parleremo solo delle aziende che sono dietro a queste cose. Questa è un'azienda con sede legale a Cipro, pare. Ah, quindi è roba loro. Ma infatti loro l'hanno detto, non hanno detto è roba straniera. Sì e no, nel senso che la sede legale è a Cipro, ma un sacco di roba per sede legale a Cipro, perché mi sa che è uno statuto abbastanza favorevole. Quindi penso che il proprietario, ma dopo lo vediamo meglio, non sia greco. E comunque, rientrando nella vicenda, invece, cosa è accaduto? È accaduto che un leader del PASOK, che è il partito, diciamo, socialista, uno dei partiti socialisti greci, si è ritrovato lo smartphone con sopra sto Predator. E anche lì sostanzialmente è stato chiesto in Parlamento dicendo ok, però se questi oggetti ce l'hanno solo le intelligence, di nuovo, sono i servizi segreti stranieri che ci spiano o sono i nostri servizi che stanno a spiare il signor Nikos Androulakis? Ah. E se sì, perché? Cioè, ha fatto qualcosa? E lì sostanzialmente ci sono un po' arrampicati di nuovo sugli specchi e hanno detto no, effettivamente è una cosa brutta, senz'altro toccherà indagare, però è stato un errore dei nostri servizi. Quindi, un errore nel senso ce gli è scappato e non è il motivo per cui penso ci sia una commissione europea. Vabbè, cioè, nel senso che non è troppo, anche perché poi dopo questa cosa che è uscita così ci sono 22, mi sembra, 23 giornalisti, penso un po' rilevanti, perché il fatto che sono 22 o 23 e nei giornali scrivono 22 o 23 di solito è perché sono nomi un po' rilevanti, hanno chiesto che venga aperta un'indagine. E gli hanno chiesto, noi pensiamo di essere stati vittima dello stesso trattamento, vorremmo che i nostri cellulari venissero controllati da un'autorità super partes. Quindi questa doppia spinta ha fatto uscire abbastanza forte sui giornali la vicenda. Però un'altra che invece di cui volevo parlare, che secondo me è anche uno dei motivi per cui poi è intervenuta la Commissione europea, perché questa qua era una vicenda che è postuma alla Commissione europea, nel senso che è dopo la formazione, quindi probabilmente verranno interrogati comunque, ma è dopo la formazione. Ce n'è un'altra invece che è interessante, che coinvolge in qualche modo la stessa azienda di Predator, ma non proprio. Nel senso che vedremo poi nei vari passaggi, a un certo punto Predator è stato salvata dal fallimento da un'azienda israeliana, ma ed pensa. È questa azienda israeliana che attualmente è coinvolta in quest'altra cosa che vi volevo raccontare, che però rende bene il clima. Cioè, fuori da un aeroporto, mi sembra che sia proprio un aeroporto di Cipro, ma non vorrei sbagliare, poi lo guardo meglio, però era una cosa che è uscita anni fa, cioè un paio di anni fa circa, come lo scandalo Spy Van, una roba del genere, era uscita così. Cioè questi praticamente hanno lasciato un furgoncino, di cui ci sono le foto, con scritto proprio la tale azienda che mi sembra si chiamasse Circle, no Whisper Force, no Whisper mi sembra. Vabbè, una Dai, poi come dopo Whisper. Ve lo dico. È una delle due, non mi ricordo più se è Whisper o Circle. No, Circle era, sì, forse era Circle perché era quella che fa le intercettazioni sui cellulari. Comunque hanno lasciato sto coso parcheggiato per quasi un anno fuori da un aeroporto. Non è che l'hanno nascosto, era parcheggiato fuori, proprio c'era scritto proprio specializzati in sorveglianza telefonia mobile. Cose così. E si sono presi tipo una milionata, ma non per davvero, cioè 1 milione di euro di multa per violazioni del GDPR. Del GDPR? Sì, del GDPR. Già. Perché loro cosa fanno con quell'oggetto? Fanno sostanzialmente tutti i trucchetti dello stato dell'arte alle intercettazioni mobili. Di mobile, cioè quelle che coinvolgono le celle telefoniche. Quindi fanno le finte celle, fanno l'IMSI catcher, fanno il downgrade dei protocolli per poterti sniffare gli SMS e eventualmente redirigere le chiamate in modo da poterle sentire. Cioè, loro... E in tutto questo coso loro hanno collezionato, lasciando lì quell'oggetto, non si sa perché, cioè perché evidentemente un motivo c'era, l'hanno messo a un aeroporto, evidentemente qualcuno volevano ascoltare. Però lasciandolo lì... cioè loro fondamentalmente, per spiegarlo in parole povere, si sono piazzati questo camioncino dove all'interno c'erano dei sistemi loro per cui si sostituivano alle celle telefoniche, probabilmente a una cella telefonica in particolare, e facevano associare tutti i telefoni che passavano di lì a quella cella telefonica e quindi captavano tutto il traffico che facevano telefonico. Varie cose, loro hanno probabilmente tutto questo marchingegno, dentro era una Chevrolet. Era un, ah vabbè, ma un se era bus, una Chevrolet... Era un bussino della Chevrolet. Un bussino. Nero, ora c'ho la foto davanti, è molto bello, e c'è scritto proprio... era Whisper l'azienda. C'è scritto Whisper, dai, vabbè. Long Range Wi-Fi Intercept. Ho capito, ma sembra Topolino, ti spio.com. Ora, non so se questo era proprio quello che hanno ritrovato lì davanti, però ci assomiglia veramente un casino. Vabbè, e dentro c'era la banda Bassotti, tipo... E dentro c'erano 3 milioni e mezzo di apparecchiature. Ah, vabbè. E c'era un po' di tutto, no? Quindi ci saranno stati, che ne so, degli altri oggetti che magari sfruttavano vulnerabilità Android e tentavano, se avevi la versione super vecchia, ad sfondartelo. E tutte queste robe. Alla fine c'è questa... Sostanzialmente la Commissione Europea per la Protezione dei Dati gli ha... Ma scusate, gli ha committato una mega multa. Ma chi se n'è accorto? Cioè, dopo un anno c'è stato magari uno che andava a fare le pulizie lì, che ha detto: ma senti, però è un anno che io vedo questo Whisper. L'aeroporto era l'aeroporto di Larnaca, che non so se è un aeroporto di Cipro, perché io sono ignorante. Che ne so io? Secondo me sì. Vabbè, ma ora al di là di dov'è l'aeroporto, ma scusami, com'è andata che se ne sono accorti? Non lo sai. Vabbè. Non lo so, perché a un certo punto qualcuno si è chiesto: ma che cazzo fa di quella cosa parcheggiata da un anno? Vabbè, quindi per caso non l'hanno fatto saltare, non l'hanno fatto brillare, perché comunque è anche un'ipotesi, e l'hanno aperto, evidentemente hanno scoperto sta roba. E quindi, scusami, questo camioncino, questa Chevrolet piazzata lì davanti, era di questa ditta israeliana? O mi sono persa nei passaggi? Il problema secondo me è questo, è che... Cioè, loro non è che lavorano per conto di se stessi, loro lavorano per conto terzi. Quindi loro erano lì per intercettare delle persone precise che arrivavano all'aeroporto. Ah, quindi non era una cosa di massa. Il problema è che per beccarne uno... Per beccarne uno, loro, siccome sono stati lì e ravanavano nel... Loro hanno preso tutto. Cioè, loro a un certo punto hanno chiesto: cosa avete preso? E loro hanno fatto vedere che avevano milioni di MAC address, di email... di me sarebbe dei numeri, l'equivalente del MAC address del cellulare, cioè una roba che identifica il device, no? E quindi è una delle cose su cui si fanno le intercettazioni. Loro, per beccarne uno, devono vedere tutti quelli che passano, e loro continuavano a collezionare roba. Tanto che a un certo punto gli hanno detto: ma fateci un po' vedere che cosa avete collezionato. Ti è un milione di euro. E qui arriviamo al terzo nodo abbastanza ricorrente di quando si parla di questo tipo di argomenti, che appunto per beccarne uno ne prendi un milione. E quindi anche se tu magari non ti senti al centro del mirino e non ti senti particolarmente attenzionato, come si dice, però di base ti può capitare che comunque finisci nella rete lo stesso, perché qualcuno ha deciso di fare pesca a strascico fondamentalmente e collezionare i dati e le telefonate di mezzo mondo per beccare qualcuno. Sì, la vicenda è del 2019. Penso che le multe siano saltate fuori un paio d'anni dopo. I contorni mi sono ancora un attimo oscuri di questa vicenda, perché l'ho appresa soltanto ricercando delle cose su Predator, e in particolare sull'azienda, che sarà poi, se mettiamo magari un altro pezzo, dopo si parla solo delle aziende che producono queste cose. Ravanando su l'azienda che produce Predator, sono arrivata a quest'altra azienda, perché sostanzialmente l'ha salvata l'altra collo finanziario. E quindi poi l'ho ritrovata all'interno di uno scandalo. E poi ho scoperto che anche questi sono israeliani. E allora sono riandato a vedere tutte le aziende che fanno cose simili in Israele, perché a sto punto sono tante. E di questo vorrei parlare dopo. Sì, tra l'altro appunto fa ridere abbastanza che generalmente quando si parla di queste cose sembra sempre un po' nella vulgata, vuole che siano appunto sistemi super sofisticati. E invece sì, in parte lo sono, però c'è anche un ampio margine di porcate abbastanza grezze che vengono fatte. Sì. E che quindi appunto molto spesso, cioè, immaginiamoci questi strumenti appunto di controllo come qualcosa poi a volte anche molto macroscopico, poi molto tangibile tra l'altro, non etereo, perché appunto un furgoncino lo vedi in realtà. È un po' tutte e due le cose assieme, nel senso che effettivamente queste robe sono molto sofisticate in parte, e spesso i mezzi, diciamo, per arrivare a installarli o come vengono utilizzati hanno qualcosa di magari molto, non saprei come definirlo, se non un po' a metà tra il rocambolesco, il comico e il goliardico, lo stronzo. Cioè un po' tutte queste cose assieme, cioè potrebbe anche fare ridere questa cosa se non fosse poi qualcosa che ha poi delle ripercussioni, perché sì, sulla vita delle persone, certo. Esatto, cioè che ne so, in Egitto, che è un buon cliente dell'NSO a cui forse ha smesso di vendere cose, ma tanto gliele abbiamo vendute tutte, pure Hacking Team vendeva all'Egitto, cioè... Ah, certo. Effettivamente la gente per motivi di questo tipo ci rimette le penne, quindi è tutto molto cioè non lo so, è molto complesso parlarne, perché ti verrebbe da un sacco da riderci sopra, perché però si tratta di armi e sappiamo le armi come vengono usate. Esatto, che proprio si vendono queste cose, si vendono alla fiera delle armi. E quindi possiamo parlare con ironia delle armi, no? Cioè, come, non lo so, ci sono tanti film sui venditori d'armi che fanno ridere, sono belli perché ti fanno ridere, no? Però sempre armi sono. Sì. E questa roba qua la piazzano alle fiere, le stesse dove ti piazzano le mine. Le mine antiuomo, eccetera. Bene, ora però ci hai messo veramente in malumore. È la mia specialità. Sì, veramente. E quindi per riprenderci un po' ci sentiamo le X-Ray Specs. Sempre con questo un po' ritardo dovuto a così. No, vabbè, però c'è questo internet. E quindi siamo all'ultima tranche delle cose che vi volevamo raccontare. Quindi abbiamo, come dire, saltabeccato tra Cipro, la Grecia, che tra l'altro abbiamo detto come se fossero lo stesso paese, non sono lo stesso paese, la Grecia e Cipro. Infatti non ho detto che sono lo stesso paese. Si poteva pensare. E la Polonia. E invece ora concentriamoci un po' sulle aziende in generale, perché ne hai citate un bel po', ma ce ne sono ancora, ed è interessante perché poi ricorrono tra Cipro e lo scandalo greco. E il collante è sostanzialmente un'azienda. Ecco, perché infatti questo non mi era chiaro. Perché allora io ho cercato, e proveremo a farlo come esercizio, per capire quanto si finisce in là nel tempo, cercando di capire di chi è cosa e chi sono queste aziende, no? Allora io sono partito da, ok, Pegasus NSO, ne hanno già parlato in tanti, ora non è che è proprio l'argomento sulla bocca di tutti, no. Però più o meno qualcosa se ne sa. Questa Predator mi giungeva nuovo, e chi so questi della Citrox? Cioè, da dove saltano fuori? Perché è un mercato molto fluido, questo, e quindi è interessante capire a chi si rivolge la gente, no? Anche perché l'NSO, siccome l'hanno presa di mira in tanti, in qualche modo, in questo strano rapporto dialettico che c'è probabilmente tra l'intelligence, il governo, le aziende in Israele, cioè, ma che poi è normale, no? Cioè, nel senso, comunque, se si parla male dell'NSO, che è una grossa azienda israeliana del campo della cyber security, in qualche modo questo sporca l'immagine anche di tutto il paese, no? E quindi il governo cosa fa? Fa le stesse cose che l'Italia, attraverso il MISE, faceva ad esempio con Hacking Team. Cioè, io ti dico con quali paesi, a quali paesi tu puoi esportare le cose e quali no. Cioè, tu non puoi vendere agli stati canaglia, perché sennò ci si fa una figura de merda. Capito? E più o meno Israele ha fatto la stessa cosa, quindi l'NSO in qualche modo deve limitare, no? Quindi è interessante vedere cosa fanno i concorrenti dell'NSO, perché la gente, se non compra da quello, andrà a comprare da quell'altro. Quando quindi è uscito Predator, ho detto, allora, ma chi l'avrà fatto? Scopriamo un po' chi sono. E sono arrivata a questa Citrox. Questa Citrox appartiene a un tipo ungherese. Questo tipo ungherese, che tra l'altro sempre in un articolo su Citizen Lab, loro tentano un po' di tracciare di cercare di ricostruire l'organigramma aziendale, chi c'è dietro queste cose, no? Questo c'ha un bellissimo profilo Instagram dove ci sono un sacco di foto sue, e tra cui ne spiccano alcune di lui davanti a due auto di quelle di lusso, con i pantaloncini, quelli stretti, stretti da hipster de merda, con la maglietta con scritto More Money. Ma deve essere un tipo simpatico. E poi ce n'è un'altra dove lui, in maniera spiritosissima, si riprende in un'atmosfera, quella un po' con le luci, così, con le luci. Sì, con le luci, tipo con ovunque. con le ombre, no? Cioè con l'ombra, ma poi vi spiego perché. Si riprende nella posa, quella famosa di Steve Jobs, con la camicetta nera, la manina sotto al mento, col collo alto, quella della foto del libro. Certo, quella, non il la camicetta, c'aveva il maglioncino a collo alto, c'aveva, no? Non si capisce bene dalla foto. Sì, comunque sì. Si rimette in posa, esattamente come Steve Jobs, cioè per dirti il personaggio. Ma che simpatico! E questo aveva questa azienda che produceva Predator, poi ci ha avuto un po' di guai finanziari. Ma peccato! Nel 2019 chi interviene a salvarlo? Interviene la Whisper. Che per quello che prima. Volevo parlare della Whisper, che però pare abbia cambiato nome. Adesso pare si faccia chiamare Passitora. Dai, Passitora LTD. Ma che è Passitora? Ma è interessante questa cosa, perché tra l'altro lo vedi, perché questi sono molto bravi, l'hanno cercato nell'equivalente della, come si chiama, della Camera di Commercio, quella international. Che non mi ricordo come si chiama. Comunque, e si vede che la Whisper si rinomina Impassitora, ma fatto sta che nel 2019 in qualche modo interviene a salvare la Citrox, e la fa rientrare all'interno di una cosa che è solo un'alleanza commerciale e non ha uno status giuridico, che però si chiama Intellexa Alliance, in cui rientrano tutta una serie di aziende che hanno fatto gruppo e cartello per fare cosa? Per contrastare la posizione forte sul mercato di queste cose qui dell'NSO. In particolare questa Intellexa Alliance si vorrebbe muovere all'interno dell'Unione Europea, quindi avrebbe come riferimento gli stati dell'Unione Europea, le intelligence degli stati dell'Unione Europea. Tra queste ci rientra anche sia quella che era la Whisper dentro questa, ma anche la Circle, che la Circle era un'azienda dello stesso proprietario di quello che poi ha aperto anche la Whisper, poi rinominata in Passitora. Che poi secondo me si dice Passitora. Passi, vabbè. Però son ciprioti la Circle... loro, vedevo. No. La Passitora qui... No, sono solo registrate a Cipro. Ah. Ma il CEO è Tal Dilian, e qui arriviamo veramente con i salti mortali bellissimi questi, mm-hmm. per cui si può veramente risalire e iniziare a parlare del 1948, se vogliamo. Oddio. Tal Dilian, chi era? Attenzione. Era uno dei comandanti della Unit 81. Ma che cos'è? È la Unit 81. È quella parte dell'intelligence israeliana che fino a qualche anno fa non aveva un nome, poi hanno iniziato a parlarne i giornali, che si occupa sostanzialmente di la parte operativa dell'NSA. No. Cioè l'equivalente della parte sì, operativa. Sì, scusatemi, l'equivalente come fosse un braccio operativo, l'equivalente a un braccio operativo dell'NSA. Cioè l'NSA probabilmente fa tutto e poi ci avrà vari sotto, no? Tipo sotto... E i galoppini, cioè, quelli fanno lavoro sporco. Era, se avete visto il documentario, quello sugli Zero Days e la vicenda Stuxnet, si faceva riferimento a un ramo particolarmente operativo dell'NSA, che era il Cyber Command. Ah, è vero! Esatto. Unit 81 è l'equivalente israeliano di quella roba lì, che deriva da una cosa che loro hanno fondato probabilmente addirittura prima, cioè che avevano già, era già nel loro organigramma dell'esercito quando hanno occupato i territori, cioè in cui hanno schierato un'intelligence, già c'erano pezzi di questa roba qui, che poi nel tempo sono cambiati, perché non è che prima gli servivano i computer, adesso si sono specializzati. È una cosa molto interessante. Lui è stato praticamente in carica, mi sembra, dal 98 al 2002. Nel 2002 hanno visto che lui aveva questa tendenza a pigliare i soldi, metterseli in tasca e poi gli rimanevano lì. Vabbè, capita. E quindi sostanzialmente è stato gentilmente invitato a uscire, sempre è arrivato ai comandi, quindi non è che scandalo, se no era un problema per tutti, però... Allora lui cosa ha fatto? Ha creato un sacco di aziende che facevano questa cosa. Per investire questi soldi, giustamente. Che faceva la stessa cosa, cioè lo stesso mestiere che faceva, ha tentato di rivenderselo. Quindi ha cercato la Circle, che era specializzata in intercettazioni ambientali, della rete telefonica. Questa Whisper, che era praticamente il passaggio successivo. Come mai ne ha create un tot? È perché, allora, cioè, questa cosa è abbastanza interessante. E da lì mi è ripartito tutto, cioè mi è venuto detto, ma perché, cioè, nascono tutte lì? Cioè, vabbè, nel senso, che cazzo? Perché forse la domanda no, meno... E no, invece c'è un motivo che è interessante, perché se ne sono accorti da soli. Cioè, c'è un ho cercato un po' nei quotidiani israeliani, perché molti hanno le pagine in inglese, cioè gli articoli sono tradotti tutti in inglese, anzi penso siano scritti anche in inglese, penso scritti molto bene. E ho trovato che in realtà spesso questa questione esce, nel senso che ho trovato in particolare un articolo che racconta come questa Unit 81, nel momento in cui ha smesso di essere un'intelligence di quelle nascoste che non si poteva manco nominare, ed è risalita un po' alla ribalta nelle cronache, ha stretto grossi rapporti con le università, per cui un sacco di... persone sono brave all'università, sostanzialmente fanno della specie di master all'interno di, delle forze di intelligence. Quando finiscono il loro percorso, diciamo, di studi. Percorso di studi o anche il loro servizio militare all'interno dell'intelligence, che dura un po' di anni, quando escono in realtà hanno un sapere in qualche modo formato in queste cose, tanto che è abbastanza comune, e in questo articolo ne cita 50, cioè delle più famose startup, diciamo legate alle questioni tech, che sono uscite negli ultimi anni, sono guidate da circa, cioè diciamo in queste 50 startup ci lavorano almeno 100-150 persone uscite dalla Unit 82, cioè quindi vuol dire che non è che era strana questa roba, che a me mi sembrava di, ma cavolo, questo esce dall'intelligence e fa un'azienda. Vabbè, lì, era il mood. Cioè, lui tutti. In realtà era un po' predecessore, perché comunque gli hanno dato calcio in culo nel 2002. Certo. Lo fanno tutti. Io ho guardato, perché ci sono i nomi, non è che tutti lavorano nel campo della cyber security, però sulle 50 citate, 11 c'è scritto nella descrizione cyber security. Quindi vuol dire un quinto di quelle si è riciclata in qualcosa che ha a che fare con la cyber security. Vabbè, giustamente, che devi fare? Poi vai a vendere pomodori, ce no? Ce ne sono diverse, tipo una è stata anche, non mi ricordo qual era, come si chiama, però è stata acquistata tipo dalla Microsoft pochi anni fa. Ecco. Cioè, quindi tendono a il classico giro della startup, cioè tiro fuori l'idea, la spingo e mi vendo a una più grossa. Faccio vedere che c'ho le competenze e mi faccio acquistare. Il caso invece di quest'altro tipo, questo tal Dillian, che viene dall'intelligence, è probabilmente perché lui, essendo stato mandato via dall'intelligence, lui non si sa riciclare e non è praticamente neanche molto geniale, probabilmente. Quello che saprà fare, visto che era un comandante dell'intelligence, è questo mestiere qua. Quindi lui si vuole vendere come intelligence privata, ma non potendo rivendersi in Israele, perché probabilmente, cioè lui inizialmente, tipo la Circle mi sembra, in qualche modo, non mi ricordo bene i passaggi, però cioè lui praticamente prima di diventare concorrente dell'NSO, in realtà aveva venduto roba all'NSO, cioè collaboravano. Ora, se loro hanno fondato questa Intellex Alliance, probabilmente perché i rapporti non sono più a quel livello, quindi lui avrà qualche difficoltà a rivendersi in Israele. Quello che fa è aprire aziende al di fuori e con questa Intellex Alliance quello che loro vogliono fare è un altro polo di servizi di questo tipo per fare concorrenza all'NSO. E Predator arriva da sta cosa qui. Cioè è uno dei tool, perché loro lavorano esattamente come fa Facebook, che ne so, quando si acquista WhatsApp. Cioè è lo stesso tipo di logica. Cioè mi compro un po' di aziende che sono nel ramo e poi mi pongo in qualche modo come un di tutto un po'. Certo. In questo modo coprono una variegata gamma di servizi di esigenze, no? Sì. Però questa, appunto, questa Intellex Alliance di cui si parla anche nell'articolo, che sarebbe interessante capire per bene chi ne fa parte, eccetera, non essendo un'entità se non commerciale è difficile, cioè non è che loro hanno registrato questa cosa e c'è un elenco delle società che ne fanno parte, sono loro che si pongono come gruppo. Però penso non abbiano niente di più, però non sono neanche sicurissimo. Vabbè, ora non ce la so. Cioè, bisognerebbe lo devo approfondire, perché non riesco tanto a capirlo, perché c'è uno strano passaggio a un certo punto. Cioè, tipo, esiste qualcosa che ha a che fare con questa Intellexa S.A. e che è registrata a nome della seconda moglie di Dillian. Ah, oh, vabbè. Cioè, era per dire la difficoltà anche di riuscire a indagare questo mondo che come tende sempre comunque a essere un po' sfuggente, ma perché non gli interessa essere... No, vabbè, è che proprio gli interessa non essere reperibili, chiaro. non essere chiari. Ma sì e no, nel senso che comunque penso che viaggino come tutte queste cose, alla fine se si parla male di me vuol dire comunque che si parla di me. Beh, cioè sì. Per loro il fatto che esca, che la Commissione Europea indaghi eccetera, mi faccia la multa eccetera, però io mi sono fatto un sacco di pubblicità, quando vado alle fiere delle armi, se tanto la gente con cui ho a che fare non è che sono brave persone. Cioè, te la giochi un po', nel senso che è un mondo fatto comunque di spocchia. Cioè, te comunque stai a trattare in un mondo dove l'attitudine è il dominio e la tracotanza e l'arroganza. Cioè, stai a parlare di quella roba lì, nel senso, comunque stiamo a parlare di intelligence, di armi, di guerra, cioè non è che... Di potere, sì. Esatto, cioè che ci stiamo a fare le carezze. E quindi tendenzialmente in quell'ottica lì sembrare il brutto ragazzo ti potrebbe andare male nei periodi in cui non si vogliono sporcare con te. Ti potrebbe andare bene perché quando hanno bisogno di fare qualcosa di sporco ti vengono a cercare, perché certo. Te sei il cattivo ragazzo. Molto bene, molto bene. Allora sappiamo, ci hai dato un sacco di informazioni, se sì, ci basta, dovesse servire, smetto. Sì, sappiamo a chi rivolgersi, ok. Se ci avete una startup da proporre, questo compra, è un fesso, sì. Evidentemente. Va bene. Dunque, in realtà il tempo a nostra disposizione sta abbastanza sfumando, basta. Finendo. Forse vi abbiamo anche un po' intontito di chiacchiere. In realtà avevamo pensato di spaziare su altri argomenti, che però a questo punto forse ci teniamo per le prossime puntate. Sì, perché avrebbe dovuto esserci un'appendice tecnica su una roba che è correlata, ma che erano un po' di, diciamo, delle falle di sicurezza che sfruttavano con questi oggettini, no? Con Predator e questi qua. Queste cose sono uscite per Project Zero, che è il progetto, diciamo, che segue, cioè un progetto di security che fa riferimento a Google, cioè è una roba sponsorizzata da Google, che però tira fuori un sacco di robe. E quindi in questo strano dialettica, in realtà, in qualche modo, questi di Project Zero sono i buoni. Cioè, non saprei come altro dirla, però è esattamente così. Cioè, nel senso che se dal tuo lato c'è Citizen Lab, quelli di Project Zero di Google, in questo caso qua, fanno lo stesso mestiere. Cioè, stanno nello stesso giochino. Mm. Capito? In questo dualismo di fronti. E quindi abbiamo detto, per riequilibrare, parliamo male anche di Google. E quindi certo. Parliamo di tutte le multe che gli sono state inflitte per... Poi, non è che ce ne freghi un cazzo delle multe, però, nel senso che è comunque l'antitrust che gliele dà. E per quanto ci sono pure i ricorsi, sì, ma no, dico per quanto io stessi, cioè, sì. Alla fine a me non me ne frega un cazzo che funzioni il capitalismo, quindi se trovano un modo per fare l'antitrust io, cioè, non è che mi sento più sollevato, però si va troppo lunghi, quindi probabilmente ricicleremo questo argomento per le prossime volte. Sì, tanto il nesso fondamentalmente l'avevi capito solo te, quindi... Ma ve l'avrei fatto notare. Sì, vabbè, ma... Li avrei guidato nei miei voli pindarici. Vabbè. Sì, sarebbe stata un'esperienza bellissima. Sì, non so se ti avremmo seguito. Comunque, in ogni caso, ce la teniamo per la prossima, che vi ricordo essere non il prossimo lunedì, ma tra due lunedì. Perché, tra l'altro, intervalleremo questa trasmissione Loveless con un'altra trasmissione nuova, di cui non vi posso dare anticipazioni, perché non ce l'ho, questa è la verità, però insomma sarà gustosa. Però prima di lasciarvi andare a dormire o a fare quel che volete, volevamo ricordarvi un po' gli appuntamenti che ci sono in vista e che potete trovare sulla punta.org, appuntamenti del sottobosco autogestito fiorentino, e appunto trovate i dettagli sulla punta.org, che è questa agenda condivisa con un po' tutti gli appuntamenti che ci sono a Firenze e dintorni, e in particolare vi ricordo mercoledì 19 ottobre alle ore 9 della mattina in Piazza Signoria c'è un presidio in occasione del Consiglio Comunale che lancia l'operazione Multiutility Toscana S.P.A. E ora in realtà c'è un enorme testo bello lungo e approfondito che vi spiega tutta la questione, non ve lo leggo perché non ho veramente il tempo di farlo, e però vi rimando al appunto alla punta.org dove potete vedere un po' tutti i dettagli. Inoltre un altro appuntamento segnalatoci sempre sulla punta.org è al Next Emerson, che questo fine settimana festeggia il suo 16° compleanno, e quindi da venerdì 21 ottobre a domenica 23 ottobre ci sono 3 giorni di festeggiamenti con moltissime cose, un programma lungo e complesso e variegato di cui anche qui non vi posso dare conto in tutti i suoi dettagli, ma che potete trovare appunto sempre sulla punta.org oppure anche sul sito del Next Emerson, csaexemerson.org. E quindi io direi che con questo, ci sono anche molti altri appuntamenti sulla punta, compresi quelli periodici, quindi tutti gli appuntamenti che si svolgono, che sono ricorrenti appunto, che non sono un po' più strani, ma che sono per esempio le palestre, i corsi, gli sportelli, vari assemblee e cose che succedono appunto in questo nostro sottobosco variegato fiorentino. E quindi vi invito a dare un'occhiata alla punta.org e vi lasciamo con invece i Roxy Music con l'Editron, giusto perché mi andava tanto di sentirla, perché tanto non la sento, e vi salutiamo e vi diamo appuntamento appunto tra 2 lunedì sempre con Loveless e ovviamente su Radio Wombat. Ciao ciao, ti non saluti, ciao E anche perché ci mette un po' sempre il pezzo a partire. You've got me, girl, on the run round, got me all around town. You've got me, girl, on the run round, and it's getting me down. Lady, if you wanna find love,